Buonasera, sono Ahmad Jazz, sono mediatore interculturale e giornalista, e da quando è stato ucciso Mohammad Shehzad Khan, io sono lì in Piazza Vittorio e ho fatto il giro di negozi, bar, e ho parlato con molti ragazzi e negozianti. E la comunità, adesso ho parlato anche con zio Aziz, che è tornato dal Pakistan, e molti giornali, televisione compresa, hanno scritto che Shehzad era clochard, era senza tetto, e quando ha sputato in faccia al suo assassino era ubriaco. Assolutamente, queste sono le notizie false, e pieno di pregiudizi sicuramente, e questo ha fatto male molto la comunità. Abbiamo fatto l'indagine, Shehzad aveva una casa, abitava in un centro di accoglienza dove ci sono le due sue valigie, i soldi e il cellulare, e addirittura loro, quando faremo noi domenica la manifestazione, verranno. E questo, e poi non beveva perché era rigido musulmano, e la stessa cosa è anche che lui era molto umile, magro, e era molto preoccupato per questa perdita di lavoro, perché quando perde un immigrato lavoro perde anche il permesso di soggiorno, quindi questa è una grande preoccupazione, e per questo che Shehzad era turbato. E cantava per strade di Torpignatara, e in questa via Ludovico Pavoni, assolutamente lui girava così e cantava, e quando suo assassino si è venuto ha picchiato e anche con i calci e pugni, finché Shehzad non è morto. Questo per me è un odio profondo che portava questo ragazzo di origine autoctono italiano, e questo non è importante, però l'importante è la persona, no? Anche se Shehzad era ubriaco e sputava in faccia, non si può uccidere una persona. Ecco, noi per questo che siamo molto preoccupati come comunità. E noi domenica, che sta arrivando 28 di settembre alle 18, faremo una manifestazione pacifica dalla Piazza della Maranella, e andremo fino a via Ludovico Pavoni per portare questo messaggio di pace, anche di dolore, perché abbiamo fatto portare le sue foto, e foto del figlio, si chiama Omar Shehzad, che ha 3 mesi. Shehzad era molto preoccupato perché non riusciva a tornare in Pakistan perché non aveva soldi, per questo anche cantava per le strade di Torpignatara. Cioè, possiamo sicuramente, insomma, è stato descritto come hai detto tu, insomma, come un barbone, ubriaco, eccetera. Le cose non stanno così, ma sicuramente soffriva un disagio, no? Perché era una condizione, come hai detto giustamente, aveva perso il lavoro, temeva di perdere anche il permesso di soggiorno, e se avesse voluto tornare non avrebbe nemmeno potuto farlo. E la versione che è uscita sui giornali quasi unanime è stata quella appunto fornita un po' dalla questura, in base alle dichiarazioni del ragazzo arrestato, che appunto è stato provocato con questo sputo, ma non è che ci sono riscontri per quello che ne possiamo sapere noi, ma giustamente, anche se fosse stato così, non era una cosa tale, poteva giustificare una reazione, ma non certamente un accanimento di questo genere. E poi, insomma, non so se voi, parlando appunto con le persone che vivono nel quartiere, siete riusciti a capire qualcosa in più della dinamica di quello che è successo rispetto a quello che è uscito sui giornali. Io ho fatto il giro in zona, ho parlato con la gente, adesso stiamo facendo le riunioni anche con i comitati di zona e mamme di Torpigna. E diciamo che parlando con tutte queste persone la versione è completamente diversa, e Shehzad è una persona, è stato colpito perché era diverso, perché era debole, questa è la verità. E per questo che noi faremo una manifestazione domenica. Non vogliamo che in questa zona, dove il multiculturalismo è un esempio, basta vedere la scuola Pisacane, dove il 90% di figli degli immigrati, che sono nuovi cittadini, studiano in questa scuola. È bella, questa è una bella notizia per questa zona, ma allo stesso tempo c'è conflitto anche di cittadini autoctoni e nuovi cittadini che sono immigrati. Questo è per bloccare questo conflitto. Noi vogliamo portare questo messaggio di aiutare anche questa zona, e io questo penso che la bisogna intervenire. La zona mi ha raccontato, la gente italiani soprattutto raccontano che c'è molto disagio, la droga e servizi che non funzionano, il comune non aiuta. Queste sono le loro problematiche, però io penso che bisogna lavorare anche sul versante razzismo, che razzismo nasce quando c'è la ignoranza. Senti, volevo chiederti una cosa, che effetto ti ha fatto vedere comunque nel quartiere un sacco di persone che hanno difeso questo ragazzo che ha assassinato? Adesso non mi ricordo come si chiama, purtroppo. Esatto. Anche perché neanche il nome, sì, purtroppo, sì, di Cesad è uscito, sì, sui giornali, come se fosse veramente una nullità, un nessuno, sì, un niente. Volevo dire invece che effetto gli aveva fatto vedere comunque delle persone che hanno esposto degli striscioni in solidarietà con questo, sì, ragazzo, eccetera eccetera. Siamo molto diciamo felici e anche sentiamo forti. Infatti torniamo stasera anche a parlare con comitati di zona di Tor Pignatara. C'è una società civile, soprattutto le mamme di scuola Pisacane, che sono molto attive, e questo ha fatto un effetto che cittadini possono vivere insieme anche se loro culture, religioni, le lingue e modi di mangiare, di vestire sono diversi, però ci sono molte cose comuni. Insieme si può creare una società sana, interculturalizzata. Ma cosa che ha fatto male a noi è quella, una contromanifestazione, uh-huh, che hanno fatto, dove c'erano scritto le striscioni, Daniel Libero, eccetera. Questo ha fatto molto male a noi come comunità, perché in questa faccenda noi abbiamo un morto in casa, un ragazzo di 28 anni e ha perso la vita. Non era criminale, non ha ammazzato mai nessuno, e per strada va ucciso da uno perché è arrabbiato, e questo ha fatto molto male alla comunità. Ma che idea ti sei fatto secondo te, perché la gente, o meglio alcune persone insomma, hanno difeso, cioè te lo chiedo proprio spassionatamente, perché per me è anche un po' complicato da capire. Volevo sapere se magari te ti eri fatto un'idea del perché, cioè è solo una questione così di solidarietà, perché magari è una persona vicina di casa che conosce, che magari hai visto crescere, c'è una questione di razzismo invece strisciante che magari in questo tipo di situazioni esce fuori in una maniera più forte, oppure qualcos'altro? Io penso che la contromanifestazione era il frutto di questa loro opinione, che qui c'è l'invasione delle moschee, invasione degli immigrati, sicuramente lì il numero di residenti immigrati è molto forte, non è come altre zone, è una zona molto multiculturalizzata, ci sono centinaia di negozi, bazar, che hanno trasformato questa zona. Sicuramente per me la diversità è bella, però alcune persone la diversità è una minaccia. Queste persone hanno visto come una minaccia questa diversità, per questo che stavano manifestando questo dolore con questo Daniel. Invece non è così, noi siamo con Shazad perché Shazad è debole. Se Shazad era criminale, la picchiava, non venivamo noi come comunità e come società civile. Noi domenica abbiamo chiesto tutta la società civile di venire, perché è stato ucciso un debole, una persona, e non è un clochard, non è un ubriaco, non è un senza tetto. Contemporaneamente volevo chiederti pure se proprio tutto questo silenzio nei confronti di Cesad da parte di tutti, istituzioni, cioè non c'è stato nessuno che ha aperto bocca, un'istituzione, ma anche penso, non so, la parrocchia di San Barnaba lì di Torpignattara, che insomma comunque è attenta a quello che succede nel quartiere, e invece nessuno ha detto niente, ha detto una parola di solidarietà, ha detto questa cosa che è successa è una cosa orribile che non dovrebbe mai avvenire. Io penso che c'è anche la mancanza di parentela, perché Shahzad era da solo, adesso zio viveva in Inghilterra, che prima abitava in Torpignattara, adesso era andato via in Inghilterra fa cuoco, e adesso è tornato e molti messaggi di solidarietà stanno arrivando, e la chiesa di San Barnaba domani farà una fiaccolata. Domani sera alle 6:30 farà una fiaccolata in nome di Shahzad, e andranno dalla chiesa, sarà una preghiera, e poi andranno fino via Ludovico Pavoni, dove è stato ucciso Shahzad. Quello che voglio chiarire da parte nostra è voglio sottolineare che Shahzad è stato ucciso e Daniel ha ucciso Shahzad, quindi c'è una vittima e un altro è assassino, non sono due vittime. Qualcuno dice che sono state due vittime, perché nella zona c'è molto disagio. Questo non accettiamo, perché questo non è giusto. Sì, perché diciamo, se vogliamo allargare il discorso per quello che possiamo, da diverso tempo nella zona di Torpignattara, la chiamiamo così, ma insomma prende anche zone limitrofe, c'è un po' una tensione per cercare di riunirsi attraverso i vari comitati di quartiere, insomma con tutte le problematiche ovviamente che escono fuori e che possiamo immaginare in questi casi, però insomma di riuscire a inquadrare un po' quelli che sono i problemi del quartiere. Certamente tu hai detto una cosa importante, hai parlato di razzismo ma hai parlato anche di una persona debole, no? E quindi possiamo estendere il concetto di razzismo anche alle persone deboli, alle persone indifese, contro cui poi a volte si pensa che si possa scagliare la propria rabbia senza conseguenze. E certo, in una situazione di impotenza per certi versi che si vive in questo quartiere come in altri pieni di problemi della città, poi a volte viene anche naturale, fra mille virgolette lo dico, incanalare questa rabbia, questa impotenza poi verso appunto il soggetto più debole o anche comunque quello diverso, come dicevamo, ma questo va detto molto chiaramente e va denunciato. Quindi su questo veramente possiamo insieme, chi abita nel quartiere, non solo che sia italiano, che sia pakistano, che venga dal Bangladesh, invece trovare un momento insieme per dire queste cose, perché il nemico non è né l'italiano per il pakistano e per il bengalese, né le persone che vengono da altri paesi per l'italiano. Il nemico sta da un'altra parte, è quello che ci fa vivere in questo modo, che costringe anche queste persone a lasciare il loro paese, perché chiariamolo, cioè non è che la gente si fa chilometri e chilometri dal Pakistan, che insomma forse non, nemmeno noi e nemmeno chi ci ascolta sa esattamente dov'è, insomma forse noi lo sappiamo, ma sta parecchio lontano, non fa certamente questi viaggi nelle condizioni che sappiamo, così a cuor leggero, li fa perché è costretto. Io la volevo dire che Shahzad aveva moglie e questo figlio di 3 mesi, e loro stanno in Pakistan e lui non aveva mai visto suo figlio e voleva tornare in Pakistan, e quello che è da parte nostra è, che è importante, è quello che io ho osservato in questi 3 giorni nella zona di Torpignattara, lì serve il dialogo per conoscere e conoscerci, e perché il problema non sono le moschee, è la lingua è diversa, la cultura è diversa, le cucine, il problema è la conoscenza. E basta che voi se vedete, io se dico kebab, riso basmati, riso cantonese, oggi tutti lo conoscono. Certo. Perché abbiamo portato questi cibi e abbiamo fatti riconoscere, le riconoscere, e alla fine sono diventati cibi italiani, e questo è Sì, bisogna lavorare per il dialogo. Il dialogo per me è importante, di tutto. Tu hai citato i cibi, hai fatto bene, perché appunto è un elemento sicuramente di comunicazione, diventa, no? Ci si conosce anche attraverso queste abitudini. Però questo rimanda, per esempio, mi fa venire in mente un aspetto che è quello del commercio. E uno dei problemi che, prima ancora che accadesse l'omicidio di Khan, si dibatteva, c'erano state più di un'assemblea dentro il quartiere, uno dei problemi che veniva fuori è, per esempio, che le attività gestite da bengalesi o pakistani sono un po' ai limiti della legalità, perché occupano i marciapiedi, insomma c'era un'attenzione magari da parte, diciamo, di altri negozianti autoctoni, come dici tu, no? E quindi c'è un po', forse complice, anzi sicuramente complice, la crisi, cioè l'aggravamento, ci sono meno soldi per tutti, si spende di meno, insomma, quindi questi aspetti si esasperano in certi momenti. Però anche qui io credo che il discorso sia un po' fuorviante, perché se c'è un sistema che qui in certi quartieri di Roma, magari in tutti Roma, in alcuni è più evidente, in altri meno, è che se c'è una questione di non comportamento regolare, diciamo così, da parte dei negozianti, sicuramente questo non l'hanno inventato. Sì, sì. È un sistema che preesisteva all'arrivo del... Io però è un aspetto che mi piacerebbe se puoi dire qualcosa su questo. Sì, insomma. Assolutamente. E, quando riguarda tutti questi negozi di Torpignatara o di Piazza Vittorio, i padroni sono tutti italiani, autoctoni, e noi paghiamo l'affitto. E tutti questi, anche nelle case di Torpignatara, molte case sono padroni, sono italiani. E loro sono molto felici, perché questa zona è degradata, se andiamo via noi, sì, e queste case rimangono vuote, questi negozi andranno chiusi, come era 20 anni fa Piazza Vittorio, molte vie erano chiuse, grazie ai cinesi che oggi questi negozi sono aperti e lavorano, perché hanno portato un loro lavoro nuovo. Quando riguarda il marciapiede, il problema è che noi dal Pakistan e India noi non abbiamo concetto del marciapiede e della pubblicità. Noi non mettiamo come nome del negozio, mettiamo la roba fuori, perché molta gente è analfabeta e quindi questo attira molto, però sì. Molti bengalesi, pakistani, quando ricevono la multa lo tolgono, però questo dipende sempre forse dall'ordine di creare nuovo ordinamento, di dire guardate che questo non è giusto fare. Però questa è la nostra abitudine di aprire stessi negozi in una via, perché noi abbiamo i bazar dell'oro e del ferro, quindi sono tutti bazar. Ecco perché anche i negozi sono sempre uguali in queste vie. Poi quando nella zona mi hanno contestato anche perché sono aperti fino a tardi, sì. Ma il comune rilascia il permesso fino alle 11 di sera e dalle 6 di mattina, e io che vengo dal Bangladesh sono povero e io la faccio la casa e bottega tutto nel negozio come abitudine. Mia famiglia viene a trovarmi al negozio, quindi io lascio aperto tutto il tempo, non faccio la pausa come fanno gli italiani. Gli italiani hanno questa abitudine di fare la pausa poi chiudere per la cena, e noi quando apriamo un negozio per noi è tutto, noi dobbiamo guadagnare, mandare soldi in Pakistan, dove questi soldi vanno divisi in 10 persone, la famiglia di cugini, fratelli, e perciò la responsabilità è enorme. Però noi rispettiamo l'orario, dopo le 11 sappiamo che fanno la multa e quindi decidiamo di andare via. Però questa cosa non c'era in Italia, di usufruire tutto l'orario lavorativo, perché il negoziante chiudeva a pranzo e dopo la cena. E questo invece nell'orario esiste, che tu puoi lasciare la tua attività dalle 6 di mattina fino alle 11 sera. E questo è una nuova abitudine che abbiamo portato, ma questo ha cambiato molto la società. Noi riusciamo a aprire un negozio davanti al supermercato, perché il supermercato alle 6-7 di sera chiude, dopo vengono da noi. Sì, stessa cosa magari la del sabato o la domenica. Abbiamo cambiato un po' l'abitudine, soprattutto molti giovani. vengano, il servizio è agli anziani, facciamo gratis. Ecco, questo diciamo che è un aspetto molto positivo. Sì, però è letto, appunto, è interpretato, sì, come dicevi tu, come hai potuto verificare anche tu, in un modo contrastante, perché sembra quasi una concorrenza sleale, no? Da parte degli altri. Però bisogna dire pure che questa deregulation degli orari in Italia c'è da diverso tempo, no? Perché tu, sì, ricordavi, appunto, si può rimanere aperti fino a quell'ora. E chi ha cominciato questo sono state le grandi catene di distribuzione, sì, i grandi supermercati, centri che hanno la domenica, che chiudono alle 10 di sera, eccetera. E i commercianti su questo ovviamente hanno provato, perché per loro è insostenibile, perché appunto hanno una modalità diversa da quella che descrivevi te, giustamente, per certi versi, perché uno deve pure vivere. E però contro di loro non c'è nulla da fare, e quindi certamente poi invece pensano che, rispetto a queste abitudini che a noi non piacciono, cioè non le abitudini vostre, noi ci battiamo perché le domeniche sia chiuso, in modo che le persone di una famiglia possano stare insieme, invece molto spesso i lavoratori e le lavoratrici di queste grandi catene di distribuzione sono costretti a lavorare addirittura il 1° maggio, come è successo quest'anno. Io volevo chiederti, tu hai citato la moglie di Khan, ma lei non verrà quindi in Italia, non riuscirà a venire in Italia? No, per venire in Italia è molto difficile. Questo è terribile. Noi manderemo la salma, e per mandare la salma servono 3.000 euro, perché noi non abbiamo il volo diretto da Roma. La salma va mandata a Milano e da lì parte, quindi servono solo 2.000 euro da qua con la cassa da morta fino a Milano, e pompe funebri prendano 2.000 euro, altre 1.000 euro per portare in Pakistan. E, è una famiglia del Kashmir, è una zona più bella del mondo, è veramente dove la natura è esplosa di gioia, di montagne, di fiumi. E da dove veniva questo Shehzad per morire per strada così terribilmente, no? Dove nessuno ha aiutato, e questo veramente mi dispiace tanto, mi fa piangere, mi vengono le lacrime. Senti, voi state seguendo anche un po', diciamo, per esempio le indagini, un po' l'autopsia, che cosa si sa, quali tempi ci sono, cosa sapete? Perché quella pure sarà una cosa importante per capire un po' la dinamica di cui parlavamo all'inizio. Tutta questa faccenda stava facendo Aziz, che è suo zio, è arrivato in Italia lunedì. Fino adesso ha avuto il permesso per portare la salma in Pakistan, dopo che finirà l'autopsia, eccetera. E altre cose ancora, l'autopsia non ha avuto le certezze, e permessi dall'ambasciata pakistana li ha presi, e l'indagine sta andando avanti, e quello che noi speriamo, che dove hanno picchiato lui o qualcuno, quando ha picchiato, erano mezzanotte meno quarto, e molta gente ha visto dalle finestre. Questa gente parli, è importante per le indagini. Questo è nostro, noi speriamo che queste persone danno la testimonianza, perché ci sono molti dubbi, per esempio quello del sputo, che lui ha sputato in faccia. Noi non ci crediamo che Shehzad era una persona del genere, che sputerebbe a qualcuno. E così anche il canto che faceva, normalmente cantava il Corano. Senti, soltanto un'altra cosa, poi non so che, insomma, che tempi abbiamo, se siamo in chiusura. Proprio riguardo, no, alle questioni che dicevi tu prima, del fatto che ci sono, insomma, delle abitudini, dei modi di fare, delle modalità di percepire anche sia il proprio lavoro sia la propria socialità, che sono chiaramente differenti a seconda, no, dei paesi, come te stavi dicendo prima. Io insomma abito da ragazzino nel quel quartiere a Torpignattara, e so, conosco le dinamiche del quartiere, conosco alcune vie dove magari, che ne so, ci sono delle situazioni particolari. Io mi ricordo che da ragazzino, per esempio, via della Maranella era un po' complicata, spesso per andare a scuola non ci passavamo per nulla. Volevo chiederti se, come dire, nel momento in cui insomma una persona da un altro paese arriva qui in Italia, si riesce a fare anche lei un'idea di come funziona il quartiere, che magari ecco ci sono delle dinamiche all'interno per cui ci si deve in qualche modo, come dire, stare attenti, saper comportare in un certo modo proprio per evitare di fare brutti incontri, dai, diciamo così. Le differenze culturali quando riguarda l'Italia e subcontinente indiano sono tante. Tante cose sono diverse, completamente, no? Basta se io vi dico nelle poesie, la bella giornata da noi è quando piove. l'autobus parte quando è pieno. Anche il concetto del tempo è diverso. Spazio, no? Per noi tutti questi le cantine che erano abbandonate in Torpignatara sono diventate moschee. E questo è per me è molto importante spiegare anche a chi arriva. Purtroppo progetti di integrazione legati alle prime generazioni non ci stanno, tanti, non ci sono tradotte le leggi italiane, le abitudini che possono leggere gli immigrati nuovi arrivati. Il problema delle seconde generazioni è minore. Perché loro, io quando sono andato a Torpignatara tutti parlavano romano, italiano, e questo è, per me è importante di qualche modo fare la comunicazione reciproca soprattutto con gli italiani, italiani giovani, italiani anziani, che questi che sono arrivati come sono fatti. Un esempio fortissimo che vi do, che noi non abbiamo l'identità culturale individuale, cioè per noi avere essere da soli è una minaccia, è una cosa brutta. Noi abbiamo l'identità culturale del gruppo, noi tutta la vita lavoriamo per il gruppo, viviamo per il gruppo, studiamo per il gruppo, noi non siamo mai soli, quindi tutta la vita noi lavoriamo per il gruppo. Invece da voi è l'identità culturale individuale, sì. Un individuo perché vota, perché pensa, perché da scuola, da piccoli italiani crescono come individui. Questo è anche un grande contrasto, no? E grande esempio di questo identità culturale del gruppo è il matrimonio combinato. Tutti questi ragazzi che vedi in Piazza Vittorio un giorno chiamerà mamma, vieni che ti ho trovato una moglie. Lui guarda, basta, se ti posso interrompere, non credere, perché questo nel in Italia un po' anche tempo fa succedeva. Beh, insomma, un po' di tempo fa io conosco persone anche della mia età che si sono sposate così, magari meridionali, insomma, perché si usava così e adesso penso non succeda più, insomma. Comunque, però questo non è una io, cosa assurda, nemmeno. No, questo esiste molto da noi, da voi è cambiato perché noi abbiamo il sistema delle caste. Questo è identità culturale del gruppo che viene dall'incarnazione, perché noi eravamo tutti indù solo 100 anni fa e perciò questo in India è completamente diverso, questo concetto del matrimonio. Il matrimonio è fulcro della società e tutti i negozi che vedi lì di vestiti di donne sono molto legati al matrimonio. Questo è una cosa nuova. Molte queste cose io vorrei tanto spiegare alle persone che sono contrarie alla nostra cultura per capire, poi decideranno dopo, ma non devono decidere prima di conoscermi. Questo diventa pregiudizio. Esatto. Così, siccome stiamo facendo una bella conversazione aperta, tu hai per esempio hai toccato il tema delle moschee e quello penso l'avrai verificato anche tu, è un altro tema sensibile. Adesso per noi non lo è perché insomma rispetto a qualunque religione siamo diciamo agnostici perlomeno, ecco, non ci crediamo nelle religioni, però come tu sai l'Italia è un paese particolarmente cattolico, poi a Roma c'è il Papa eccetera eccetera, ecco anche questo numero di moschee non so se è numeroso o meno, io non ti so dire onestamente perché appunto non sono l'ultimo che può dare un giudizio. Però anche questo può diventare o è diventato, o se hai avvertito anche tu come elemento di frizione questa apertura di moschee, ecco, qualcuno parla di islamizzazione, no? Sui titoli dei giornali, per esempio. E anche questo non aiuta, diciamo, quel dialogo, quella comprensione che tu dicevi. Così come non aiuta, te lo dico francamente, per esempio, vedere tante donne che prima non c'era, negli ultimi tempi se ne vedono un po' di più, francamente, con il volto interamente coperto. Allora, il cittadino medio, individualista, come dici tu, sì, italiano, sì, perché è educato così, sì, non sì, capisce, anzi ha un modo di repulsione. Allora, tu dici, bisogna comprendersi, però fino a che punto secondo te è possibile che anche da parte dei pakistani, dei bengalesi, diciamo degli stranieri che vengono qui, magari praticanti di una religione, ci sia questa disponibilità, non dica a modificare, ma a comprendere che magari certe abitudini mettono in difficoltà, insomma, no? Io penso che la prima cosa è da fare, perché queste moschee sono islamiche, l'Islam è non è una religione, è un codice di vita, perciò costringe a una persona di vivere interamente la sua vita, sia privata che pubblica, come musulmano. E io sono contrario al burka, perché va contro la legge italiana, però se gira qualche donna va contro la legge italiana, questo a me come musulmano non accetto. Però in Italia ancora esempi sono, a Torpignatara avevo visto una o due donne, però è sbagliato. La stessa cosa se io dico una donna in minigonna in Pakistan, che creerebbe molti problemi. E così è anche qua, per me è questa è una cosa brutta, però è la moschea è la religione islamica, e noi abbiamo aperto le moschee perché da noi è proibito essere atei o agnostici, c'è addirittura pena di morte, e perciò tutti rimangono musulmani attaccati alla religione. Questo è un fatto molto importante. Tutti i musulmani, ricordiamoci che 85% dei musulmani non sono arabi, hanno le proprie lingue, quindi in queste moschee loro fanno la pratica di propria lingua, la lingua del Corano arabo, e la combinano tante feste dentro questa moschea. Però finché in Italia non ci sarà la reciprocità e concordato con lo Stato italiano, le moschee rimarranno brutte. Se lo Stato italiano fa un concordato con l'Islam, come ha fatto con i cattolici, possono emergere le moschee belle, come un monumento, come quella di Parioli di Roma. Questo, quando gli italiani vedono le moschee sotto nei garage, nelle zone industriali, sembra una cosa brutta, ma anche da musulmano, a me sembra molto brutta, perché sono queste cantine sono puzzolenti, c'è la umidità, e io pure sono contro, però cosa facciamo? Gli immigrati non hanno tanti soldi e le zone sono piccole, quindi spazi che trovano creano le moschee, però devono comunicare agli italiani, e l'imam venerdì deve parlare la lingua italiana. Questo manca ancora, perché le seconde generazioni se no non capiscono, e anche in queste moschee non vengono i musulmani di altri paesi come senegalesi, arabi, perché è una moschea solo bengalese. Da voi in Torpignatara ci sono tre moschee, perché dentro anche l'Islam ci sono protestanti, cattolici, uh-huh, e quindi siamo usciti, sunniti e wahabiti, per questo che sono divise. Un'ultima cosa, anzi quasi ultima, insomma, per tornare a... Sì, sì, parliamo anche di domenica. E in prospettiva, insomma, come dici tu, qui ci sarà da lavorare. Mi sembra che un po' tutte anche i comitati di quartiere, la Certosa, come quello della Snia della Prenestina, come il comitato di quartiere di Torpignattara, oltre che le mamme di Torpigna, mostrano una certa volontà e sensibilità. Però qui i problemi si sovrappongono veramente, no? E sono tanti. Domani verrà il vice sindaco, vediamo che dice, insomma, perché è la prima volta che le istituzioni si muovono, tra l'altro con ritardo, insomma, vedremo cosa viene a dire. Non so se si sono fatte vive con la comunità pakistana, ma mi sembra di no. E allora qui sorge, no, un discorso, io la metto proprio secca: o il dialogo, la tolleranza, la comprensione, o la polizia. Perché qualcuno chiede poi di risolvere tutto facendo venire la polizia. Mettiamo più polizia, apriamo un altro commissariato, mettiamo le camionette, il controllo, eccetera, eccetera. Ecco, come la pensi tu? Ecco. Io penso che la forza non abbiamo risolto né in Iraq né in Afghanistan e in tutti i paesi. Quello che può cambiare una società è la cultura, arricchire la cultura, arricchire la cultura plurale, non quella che esiste, perché le società cambiano, no? Oggi 5 milioni di immigrati in Italia hanno fatto diventare il paese multiculturale come l'Inghilterra, però è per questo che serve la necessità di lavorare insieme, di conoscere la mia religione, conoscere la mia cucina. Io la stessa cosa devo fare anche io. E poi la una strada obbligata, una diventa una cosa normale, di avere un pensiero plurale. Questo per me è importante, che questa società diventi così, perché adesso anche se io non voglio integrare, i miei figli stanno a scuola italiana, è lì che studiano con gli insegnanti sono italiani. E questo per me è la via giusta di interazione, non all'integrazione. Interazione, ognuno non deve lasciare proprio spazio, ma allo stesso tempo deve interagire per creare una società sana, interculturalizzata, come era in Sicilia una volta quando c'erano i musulmani mille anni fa. No, fra l'altro sì, hai fatto bene a dire interazione, perché anche integrazione è una parola che a noi insomma un po' ci lascia perplessi, perché poi si dice sempre che qualcuno deve essere integrato, no? Sì. Invece interazione significa che ci avviciniamo gli uni agli altri, e questo è lo spirito, mi sembra, con il quale voi promuovete proprio questa iniziativa di domenica a Piazza della Maranella, proprio a pochi metri da dove è stato ucciso Khan. Sì, noi Piazza della Maranella chiediamo tutta la società civile e compagni di venite, tanti, perché non mi piace che se siamo solo pakistani o bengalesi, chiedo a tutte anche le comunità straniere, soprattutto i cinesi, gli africani, venite anche voi, perché se siamo tutti insieme diamo un segnale che noi siamo tutti uniti, nessuno può uccidere qualcuno perché è debole, perché è diverso. E quindi anche ovviamente un omaggio, un ricordo per questo ragazzo. Se non avete da aggiungere, allora l'appuntamento è alle 18 Piazza della Maranella, zona Tor Pignatara, l'autobus famoso 105. Sì, comunque sì. È una zona, fra l'altro, che molte persone immaginano che sia chissà dove oltre d'accordo, cioè una della cinta di periferia vicino al centro, cioè facilmente raggiungibile la zona. E quindi va bene, ci fermiamo qui. Penso che sicuramente riprenderemo il discorso, ci ha fatto molto piacere insomma parlare con te, e quindi rilanciamo il tuo appuntamento per domenica, e speriamo che ci siano anche molti autoctoni come li hai chiamati tu. Grazie mille. Grazie mille. Ciao.